24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. È venerdì e dunque l'ultima puntata della settimana. Sentite già il tono di soddisfazione che cresce. Allora, di che parliamo oggi? Parliamo di quello che è successo in Sicilia, l'ennesima tragedia legata alle alluvioni. In Italia il ministro all'ambiente Clini propone anche di svuotare e togliere le persone dalle zone a rischio. È un progetto ambizioso, qualcuno dice assolutamente infattibile, assurdo, impossibile. Insomma, di questo vogliamo discutere, dell'ennesima tragedia legata all'ennesima emergenza e agli ennesimi errori dell'uomo o incuria del territorio. Poi avremo ospite, ve lo annuncio alle 8:20, Roberto Vecchioni, colui che insomma è in mezzo alle polemiche per questo compenso, presunto compenso, presidente Forum della Cultura a Napoli. Parlerà con noi a Radio 24 e di questo oggi si occupano ancora i giornali che andiamo a sfogliare. È venerdì 25 novembre. I titoli di apertura per il Sole 24 Ore: il veto tedesco sugli euro bond. Corriere della Sera: Italia, riforme impressionanti. Questa è la frase di Angela Merkel. Per Repubblica: Merkel e Sarkozy, fiducia a Monti. La stesso titolo lo troviamo sulla Stampa. Mentre Libero: la stangata di Monti la sa solo la Merkel. Tutti aprono su questo, il vertice a tre. Il Messaggero: Merkel-Sarkozy, sostegno a Monti. In ginocchio dalla Merkel, titola il giornale, mentre il Fatto Quotidiano: i vitalizi al Senato, la casta ci prende in giro. Questo è il titolo di apertura. Per l'Unità: Fabbrica Italia, gli operai e la chiusura di Termini Imerese. Così anche il Manifesto in prima pagina: lacrime e rabbia, con la foto degli operai di Termini Imerese, per l'appunto. Ma io da cosa voglio partire? Alcune notizie, alcune chicche. La prima: rimaniamo a proposito di Termini Imerese in Sicilia per una vicenda totalmente diversa. Gita vietata ai bimbi obesi. Questo è il titolo che troviamo a Repubblica, su Repubblica, pagina 29. Bufera sul preside siciliano, ma anche Libero vi dedica una pagina. Niente grassi in gita scolastica per il preside, rovinano il viaggio. Che ha combinato il preside Orazio Caschetto dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi di Pozzallo, in provincia di Ragusa? Sta organizzando una settimana bianca in Trentino e ha fatto questa circolare: i bambini che vengono in questa settimana siano atletici, perché diversamente si rischia di rovinare la gita del gruppo e anche per sé. Insomma, gita sconsigliata ai bambini obesi. E fa anche un esempio questo preside: in una gara di matematica non ci va chi ha un'insufficienza grave. Ovviamente si è scatenata la bufera, l'accusa di razzismo. Insomma, i bimbi devono essere atletici per poter sciare, per non rovinare la gita. I genitori ovviamente dei bimbi, magari un po' in sovrappeso, dicono: ma che è questa discriminazione darwiniana? Il dirigente scolastico, tra l'altro sentito da Repubblica, non recede di un passo. Non abbiamo escluso nessuno dalla gita, abbiamo semplicemente raccomandato di partecipare se si è abbastanza atletici. Insomma, tutto qui. In 10 anni abbiamo organizzato le gite diverse, tutti hanno avuto modo di partecipare. Qualcuno cerca visibilità. E poi è assurdo insinuare una discriminazione mia e della scuola nei confronti degli alunni. Siamo consapevoli del ruolo educativo e psicologico che esercitiamo. È come quando si va in pizzeria. C'è una varietà di scelta e chi magari ha lo stomaco più delicato chiede una pizza con meno ingredienti, no? Quindi, tradotto, se bisogna andare a fare una gara o comunque una settimana bianca sugli sci, i bimbi non atletici devono starsene a casa. Questo per il preside di un istituto comprensivo di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Come detto, parleremo allora con Roberto Vecchioni alle 8:20. Il Corriere della Sera con Goffredo Buccini, oggi a pagina 36, dedica una pagina: la lite per il super compenso del cantautore di sinistra, l'accusa a Vecchioni per 2 anni, presidente del Forum delle Culture a Napoli, andranno 220.000 euro. In realtà la cifra non è confermata, la cifra poi è omnicomprensiva, non si capisce se dovesse essere questa, se andranno tutti a Vecchioni o a tutto il suo staff. Insomma, cercheremo di capire. Certo, a Napoli si discute di questo in tempo di crisi, l'accusa anche sul Corriere della Sera, a dire, di giornali ieri, soprattutto giornali così berlusconiani vengono definiti, no? Giornali di centrodestra, che hanno, non gli hanno perdonato magari la, anche la sua performance sanremese di qualche anno fa, no? Sul bastardo che sta sempre al sole, questo verso che non fu mai del tutto chiarito a chi si riferisse Vecchioni. Sta di fatto che anche il sindaco De Magistris lo difende, le cifre non sono queste, staremo a vedere qual è la sua versione, chissà quanto prenderà Vecchioni, ce lo dirà alle 8:20 di queste polemiche che lo riguardano. Intanto noi ci fermiamo per 6 minuti. 24 mattino. Le 7:33 minuti, eccoci, allora ci tuffiamo nella lettura dei giornali dedicata per molti quotidiani come apertura a quello che è successo ieri al vertice a 3 tra Monti, Sarkozy e Angela Merkel. Scrive Gerardo Pelosi a pagina 3 sul Sole 24 Ore: Merkel, riforme impressionanti. Ecco, ha usato questo aggettivo la cancelliera tedesca. Impressionanti le riforme dell'Italia. Certo, in Italia qualcuno fa notare non le conosciamo ancora, ma insomma Monti chiaramente ne ha parlato con lei. Promosso dunque il piano italiano. Ci sono anche una serie di articoli, anche Gerardo Pelosi racconta l'atmosfera decisamente cambiata, insomma, rispetto a quando c'era Berlusconi, tra Sarkozy e la Merkel, che appoggiano il piano italiano, così anche il Corriere della Sera. Monti incassa la fiducia dei leader, l'Italia farà i suoi compiti a casa, i compiti a casa. La cancelliera tedesca impressionata dagli sforzi. In realtà poi se si va un po' più a scavare in questo incontro a tre, per esempio il Corriere della Sera racconta con Paolo Lepri il parere di uno dei germanisti più famosi che ci sono in Italia, è stato anche presidente dell'Istituto della Cultura a Berlino, Angelo Bolaffi. Professor Bolaffi, che è intervistato, dice: in realtà la Merkel nel suo animo rimane fredda con l'Europa, è un'avarizia strategica la sua, quella che ispira le mosse di Angela Merkel. Infatti ieri ha ribadito il suo no secco, per esempio, all'ipotesi degli eurobond, il veto tedesco sugli eurobond. Questo, ricordo, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Chi lavora con lei, dice Bolaffi, racconta che la cancelliera sa ascoltare, è un vero e proprio metodo il suo, usato sia nelle riunioni con i consiglieri sia nella concertazione, che è sempre molto forte con gli altri capi di governo, ma in realtà rimane fredda nel suo rapporto con l'Europa, tanto che anche Sarkozy qualcuno lo dà per seccato. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa: l'irritazione di Sarkozy contro il diesel Angela. Il presidente è seccato per il nulla di fatto. Per il Fatto Quotidiano addirittura è stato un fallimento questo vertice a tre. Cioè, di fronte, dietro poi, se si scava appunto alle false apparenze, agli sorrisi, alle dichiarazioni di intenti, in realtà Sarkozy voleva di più dall'Unione Europea, vuole che la BCE inizi a sostenere i paesi in difficoltà, è favorevole agli eurobond, anzi ai bond di stabilità. Monti non vuole interventi della BCE, ma è possibilista invece sugli eurobond. La Merkel non vuole né gli interventi della BCE né gli eurobond. Questo potrebbe essere il sunto, la sintesi di questo vertice a tre, che fa capire, insomma, che non c'è un accordo in realtà totale su niente su questi due temi, eurobond e sostegno della BCE, da parte di questi tre leader europei. E poi vabbè, Repubblica mette a pagina 3, nell'articolo di Alberto D'Argenio, che ha seguito a Strasburgo questa visita di Monti, mette le due foto, no? Ecco qui la foto, ricordate, dei sorrisini, sorrisetti della Merkel e Sarkozy sull'Italia, una domanda sull'Italia e Berlusconi, e poi invece ieri c'è un Monti glaciale e la Merkel e Sarkozy con la mano sinistra, con uno sguardo molto severo, molto tranquillo, molto istituzionale a dire, come dire, a lei la parola, Monti. Ecco, la Repubblica mette queste due foto a confronto, no? Ieri a Strasburgo e i sorrisini su Silvio. Vabbè, continua questo confronto. Mentre i giornali come Il Giornale, per esempio, titola così: Monti in ginocchio dalla Merkel, ma il piano Eurobond fallisce. L'accusa praticamente è questa: la Merkel ha definito impressionanti queste riforme, ma come scrive anche Libero, vorremmo saperle anche noi. La stangata di Monti la sa solo la Merkel, il premier rivela al cancelliere tedesco e a Sarkozy quei provvedimenti che in Italia sono ancora segreti. In realtà provvedimenti che arriveranno la prossima settimana e che insomma sono abbastanza ormai ipotizzabili. Oggi il Sole 24 Ore entra ancora più nei dettagli. A pagina 11, da ICI e rendite in arrivo 5 miliardi dall'Immacolata Natale, tutto d'un fiato. Questa è l'idea della prima manovra del governo Monti, che potrebbe restare in Parlamento giusto il tempo dell'Avvento. La parola passa agli uffici tecnici, che dovranno tradurre in norme le misure correttive necessarie per assicurare il pareggio di bilancio nel 2013, che è stato confermato. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare a Palazzo Chigi all'inizio della settimana dell'Immacolata per varare la manovra da presentare il 9 dicembre alla riunione del Consiglio europeo. Dunque cercare di fare tutto in una quindicina di giorni, da qui al 8 dicembre. Si reipotizza per l'IVA l'aumento dell'aliquota ordinaria del 21%, addirittura si discute dell'ipotesi di avanzare di 2 punti al 23%, con questi 2 punti si potrebbero incassare 8,8 miliardi, aumentando invece di 1 punto sia l'aliquota agevolata del 10% sia quella del 21%, l'incasso già certificato dall'economia all'Unione Europea è di 6 miliardi. Poi c'è l'ICI, poi ci sono le pensioni, con il neoministro Elsa Fornero che ieri ha detto la riforma delle pensioni è già stata largamente fatta, necessita però di tempi più accelerati. Così ne scrivono Davide Colombo e Marco Rogari a pagina 13 del Sole. Il pacchetto organico prevede contributivo per tutti, superamento delle pensioni di anzianità. Insomma, anche qui la settimana prossima potrebbe essere decisiva, o comunque si potrebbe vedere qualcosa di concreto. Certo, il Corriere della Sera oggi con Sergio Rizzo, lo aveva già fatto un paio di giorni fa al Sole, ma oggi Sergio Rizzo fa una inchiesta più approfondita sui dati di Confartigianato, pone un problema annoso che chi ci segue sa che seguiamo con attenzione, spesso lo riproponiamo, ma che ora rivela con dati ancora più impietosi quello che è il dramma, vale a dire i pagamenti in ritardo alle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Pagamenti in ritardo quando un'impresa aspetta 793 giorni. 793 giorni. Il record è in Calabria. 2 anni, 2 mesi, 3 giorni. Difficile spiegare a un fornitore delle ASL calabresi costretto ad aspettare tutto questo tempo per incassare il dovuto che pagare in tempi civili la sua fattura comporta un aggravio per i conti pubblici. Questo almeno pensa lo Stato. Dopo 793 giorni in attesa, la tua azienda rischia di non esserci più, strozzata dagli interessi sui debiti contratti per tirare avanti, nella vana speranza che la pubblica amministrazione si decida a onorare i propri impegni. Certo, questo è il record, ma non va meglio in Molise: 755 giorni di media di pagamento, in Campania 661, in Lazio 398, Puglia 349, i più virtuosi che pagano entro i 100 giorni, l'Alto Adige, Trentino Alto Adige 96 giorni, unica regione in Italia dove la sanità onora i propri debiti in meno di 100 giorni, davvero incredibile, forse dallo Stato lento a pagare potrebbe iniziare Mario Monti, no? C'è molto da fare. I giornali tipo Libero o Giornale accusano di 2 cose. A. Monti ha detto tutto alla Merkel e in Italia non si sa nulla. E B. Insomma, quel fate presto, quell'appello del Sole 24 Ore, dove è finito? Insomma, che cosa sta imbrigliando un po' mentre le borse ancora non vanno bene, gli spread salgono? Perché Mario Monti è un po' ingessato, dicono questi giornali in incontri importanti in Europa, eccetera? Cosa lo blocca? Oggi Filippo Facci del titolo Fate presto, è il suo appunto su in prima pagina di Libero con un asterisco copyright Il Sole 24 Ore. Scrive: non è uno scherzo, non stiamo facendo gli spiritosi. Premessa: il Consiglio dei Ministri di oggi, convocato alle 9.30, ha questo ordine del giorno. 1. Disegno di legge straordinario e ineludibile sul protocollo di modifica della Convenzione Italia-Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. 2. Disegno di legge su accordo Italia-San Marino sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari. 3. Disegno di legge sull'accordo Italia Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. 4. Disegno di legge sull'adesione alla Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi. 5. Decreti presidenziali straordinari su risorse umane, contabilità e disciplina dei flussi informativi per l'esercizio dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e la criminalità organizzata. Vabbè, conclude Facci, da qui una sola domanda: ci state prendendo per il culo? Vabbè, questa è messa giù in maniera molto dura. Il Foglio, mi sono perso nelle testate perché uno apre il Foglio oggi e legge la testata, la prima pagina del Sole 24 Ore. E c'è tutta una pagina ironica del Foglio che ricalca il celebre Fate presto del Sole 24 Ore di qualche giorno fa. Il titolo è Fate con calma, proprio con la testata riprodotta al Sole 24 Ore. C'è anche Maurizio Milani, no? Il comico, che fa un pezzo dal titolo Monti vedrà i masai, i boscimani, gli eschimesi ed è pronto già un decreto sul Giro d'Italia. Tolleranza invece sul bracconaggio, purché fatto con garbo, misura e decoro. Insomma, l'accusa è: fate presto, fate presto, fate presto, ma insomma, sì, settimana prossima, ecco, speriamo, perché per il momento c'è tanto di annunci, ma chiaramente ci si chiede che cosa stia un po' legando il fatto di poter fare e dover fare presto. Un altro elemento sul quale c'è un po' di impasse è quello sui sottosegretari, la nomina dei sottosegretari per completare la squadra di governo. Allora, pare certo che ieri Monti, in un vertice segretissimo davanti a Palazzo Giustiniani, c'era tutto blindato e pare, racconta Repubblica, che siano entrati da tunnel secondari, insomma come dei ladri che entravano un po' di soppiatto. Bersani, Alfano e Casini, dunque PD, PDL e terzo, il terzo polo, hanno visto Monti, vertice segreto della maggioranza, Monti con Bersani, Alfano e Casini, a pagina 7 di Repubblica si discute di sottosegretari. E allora, al Senato promettono: taglieremo i vitalizi. Ovviamente sempre per i senatori che verranno, no? I diritti acquisiti non si toccano, ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche alla Camera, questa è l'ipotesi. Attenzione, cari ascoltatori, abolire i vitalizi forse è una parola esagerata. Si vuol passare a un sistema un po' più equo, perché attualmente dopo 5 anni di legislatura i senatori o i parlamentari hanno la pensione, il vitalizio di 3.000 euro, no? Per chi fa una legislatura. Cicciolina, nostra ospite, qualche giorno fa prenderà il vitalizio a partire da lunedì. Si vuole un sistema più equo. In che lavoro, in quale lavoro, cari italiani, dopo 5 anni di contributi avete una pensione da 3.000 euro per tutta la vita? In nessun lavoro, appunto. Si vuole fare un sistema più equo. Dal Senato stop ai vitalizi, ma dalle prossime elezioni. Così titola il Corriere, mentre il Fatto Quotidiano, che lo mette in apertura di prima pagina, è più duro. La casta ci prende in giro, vitalizia al Senato, una delibera di Palazzo Madama sopprime le pensioni d'oro, ma solo a futura memoria per quelli che verranno. E nel 2018, perché 2018? Perché si pensa che sarà da quell'anno che si cominceranno a vedere i benefici di un'eventuale riforma dei vitalizi al Senato. Intanto oggi vi segnalo l'articolo di Tommaso Labate in prima pagina del Riformista. Ieri, quando l'onorevole leghista Manuela Dall'Ago arriva all'annunciazione dell'articolo 9, l'Aula di Montecitorio trattiene il fiato, perché l'articolo 9 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico curi la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche. E poi prende la parola l'onorevole Mazzocchi. C'è uno stato di incertezza e confusione che interessa negativamente gli operatori, i consumatori, insomma. Ma di che sta parlando la Camera? Ieri, alle 19:10 di mercoledì 23 novembre, l'altro ieri, della crisi BTP, delle richieste BCE, dei rischi dei Bund? No, mentre l'Italia crolla, si discute a Montecitorio dello studio sistematico delle pietre preziose, la gemmologia. Gli onorevoli deputati, dovendo giustificare un lauto stipendio, non essendosi ancora materializzati i provvedimenti annunciati dal governo Monti, decidono di riempire il tempo con una norma che poteva essere tranquillamente approvata in sede legislativa dalla Commissione. E invece ecco qui proposte di legge Mazzocchi, Carlucci, Mattesini ed altri sulla regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Pietre preziose, insomma, un tema cruciale soprattutto in tempo di crisi, eh? Insomma, c'è anche questo dramma della Camera, vero e proprio, in attesa che arrivino i provvedimenti veri, quelli del governo Monti. Di che si parla? Di gemme, pietre preziose. Intanto il presidente della Camera Fini querela Libero. Ieri abbiamo raccontato la storia che Libero metteva in apertura sul pulmino, il van, una Lancia Fedra che è in dotazione alla Camera e che secondo Libero sarebbe a esclusivo appannaggio del presidente della Camera, che la userebbe anche nei weekend per portarci le bombole, i giochi delle bambine, insomma una cosa proprio da casta vera e propria. Fini ha deciso quereliamo Libero. Oggi Franco Bechis in realtà fa una seconda puntata. Fini ha mentito al governo sul pulmino blu. Vi presentiamo i documenti. Ecco qua, la Lancia Fedra è in dotazione alla Camera, effettivamente non al presidente, ma è di proprietà della Camera. Ma per 3 anni la Camera, quando il ministro Brunetta aveva chiesto di far sapere quante auto blu ci sono in dotazione, misteriosamente, scrive Libero, la Camera rispose di non avere avuto auto di proprietà. È una bugia. Storie di casta oppure no? Il sindaco di Milano Pisapia ha deciso, con annesse polemiche, di mettere in vendita molti dei biglietti che tradizionalmente vengono assegnati per la prima scaligera, la prima della scala, all'amministrazione comunale. E dunque ha detto no. Pagatevi il biglietto, così titola il Fatto Quotidiano. Il sindaco di Milano abolisce i 110 omaggi per la prima alla Scala, i politici protestano, biglietti in vendita a partire da 2.000 euro, il ricavato andrà per gli alluvionati, credo. C'è chi plaude questa iniziativa, come il Quotidiano Nazionale, dalla Scala agli stadi, la rivolta anti-VIP, basta con gli ingressi omaggio. C'è chi, come il Giornale, dice l'ultima stecca di Pisapia declassa la prima della Scala. C'è che cosa? Noi ci occuperemo di alluvioni, l'ennesimo scandalo con l'ennesima tragedia in Sicilia, questo alle 8:30. Vorrei darvi ancora due segnalazioni prima di chiudere, interessanti. La prima, inquietante per la verità. Ricordate l'uccisione di Marta Russo, uccisa alla Sapienza per un proiettile vagante sparato, secondo l'accusa, da Giorgio Scattone e Giovanni Scattone, per la verità. Il Fatto Quotidiano racconta questo: il professor Scattone nel liceo di Marta Russo. È una vicenda che raccontano Andrea Palladino e David Perluigi. Chissà se Giovanni Scattone alza gli occhi tutte le mattine quando passa davanti alla pergamena chiusa in una cornice di radica col nome della sua vittima, Marta Russo, la cui morte nei viali dell'Università di Roma La Sapienza ha suscitato unanime cordoglio. Da lunedì al sabato, l'ex assistente della facoltà di giurisprudenza, accusato, condannato di avere ucciso con un colpo di pistola la giovane studentessa uccisa nel maggio 97, è professore nel liceo romano dove Marta Russo ha studiato. Non è un liceo come gli altri, infatti, ma la scuola dove Marta Russo ha trascorso gli ultimi 3 anni degli studi per la maturità scientifica. L'ex assistente universitario, che ora ha riacquisito il diritto a insegnare, condannato per la morte della ragazza, ha avuto una cattedra proprio nel liceo dove la ragazza ha studiato. Ovviamente tra il dolore dei genitori, ma si sa, succede in Italia. Infine, dall'Italia vuole andarsene, pare, o vogliono andarsene, Dolce e Gabbana. Gabbana, dopo che il una sentenza ha annullato la sua assoluzione, la loro assoluzione per aver evaso il fisco, hanno postato su Twitter, questo Gabbana, per la verità Stefano Gabbana, su Twitter, ladri, stato ladro. Oscar Giannino sarebbe d'accordo, non nella vicenda in sé magari. Andrei via da qui. A questo punto bisogna andarsene. Fisco ladro, da andarsene sul secolo XIX. Gabbana al fisco e Twitter, ladri, andrei via da qui. E ancora su Libero, rivolta di NG, fisco ladro, è meglio andarsene dall'Italia. 24 mattino. Eccoci qua, allora sono le 8 e 22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, le polemiche per il compenso, ieri sono uscite su tutti i giornali, le polemiche per il compenso da presidente di Forum delle Culture a Napoli per Roberto Vecchioni, chiamato dal sindaco Luigi De Magistris. Oggi Roberto Vecchioni ai nostri microfoni. Vecchioni, buongiorno. Buongiorno, ma se ci tenevo a chiarire un po' di cose. Ecco, intanto ci chiarisca, perché ieri è uscito questo. Oggi anche il Corriere della Sera fa una pagina dicendo questa cifra, 220.000 euro. No, beh, non è assolutamente. Siamo completamente fuori. Guarda. Siamo fuori. Qui sono tutte voci, di tutti i tipi. Di vero c'è soltanto che non è ancora stato deciso nulla, che io non sto prendendo niente. Siamo nel campo delle proposte, come è normale che sia, perché siamo all'inizio, che stiamo valutando tutto, che non dipende da me questo, perché dipende da una cabina di regia che stabilirà quanto è congruo per quello che faccio, ma per tante cose credo che da aggiungere a una stipendio base normale, purtroppo stiamo parlando di soldi, che una cosa mi dà un fastidio tremendo, ma comunque bisogna parlarne, sì. Ed è giusto. Di sti tempi poi, no? Capisce, no, giusto, che quando si parla. Una cabina di regia che deve stabilire quali sono i... qual è un prezzo. Un prezzo, e questo è giusto, insomma, nessuno dice di fare la cosa gratis. Quando lei dice che è una proposta, cosa vuol dire? Cioè che è una proposta, sì, che lei ha fatto? È una proposta molto larga che comprende lo stipendio che normalmente prende un presidente, come è giusto, che lo stipendio, se andiamo a cifre se vuole, lo stipendio del presidente, sì, per il precedente era di 70.000 all'anno, quindi va eliminata questa fetta perché sarebbe di spettanza mia, alla quale per colloqui e discorsi eccetera va aggiunto un surplus, un valore in plus, perché penso che sia normale che, abbandonando per due anni quasi tutta la mia attività artistica, sì, che è ben più remunerativa della cifra che potrei aver chiesto, ci sia una specie di compensazione. Quindi 70.000 sarebbe quello che prendeva il vecchio presidente, sì, del Forum delle Culture. Quello che prende il vecchio presidente era 70.000 euro all'anno, al quale aggiungere quello che lei perderebbe, quello che lei perde non facendo l'attività. Molto meno di quello che perde, comunque non fa nulla, è quello il... Però il totale, cioè questa richiesta è più o meno quella che si è letta, 220. Sì, è più o meno quella, ma è un più po' meno. Più bassa. 200, facciamo 200. No, andiamo dietro un dito. No, facciamo su 200.000 euro, però le polemiche lei come le legge? Guardi che oggi, ieri sa, Libero il giornale, vabbè, magari politicamente non la pensano come lei, ma oggi anche il Corriere della Sera ci fa una pagina a dire, insomma, ci spieghi perché questa richiesta che appare un po' esosa. Sì, la richiesta è esosa se non si conoscono tutte le motivazioni. Ah, la linea che è caduta, adesso lo recuperiamo sul cellulare. Insomma, questa richiesta, ripeto, oggi il Corriere della Sera scrive un articolo a firma Goffredo Buccini, la lite per il super compenso del cantautore di sinistra. Tra l'altro scrive Goffredo Buccini, l'uomo che ha spiegato latino e greco agli studenti del Parini e del Beccaria, le malinconie di ogni giorno ai ragazzi di tutta Italia, deve trovare la maniera di dirci perché, per la manifestazione più importante messa in calendario per il 2013, si è buttato a fare calcoli come il più pignolo dei ragionieri. Era un pezzo dell'articolo del Corriere, Vecchioni, l'abbiamo recuperato. Allora, ci spieghi perché questa cifra? Non sono stato il più pignolo dei ragionieri, no. Sono stato uno che dopo 40 anni non ha beccato un soldo, ha trovato anche un'occasione giusta. Qui dovrò naturalmente vedere se quello che ho chiesto può andare a detrimento o a danno di una società, questo non lo devo vedere io, lo devono vedere gli organi preposti a questa situazione. Mi faranno una controfferta naturalmente e parleremo su quella base, ma quello che conta, quello che è più importante di tutto è che io ho comunque un plafond da cui non devo e non posso scendere, per dignità, per, giustamente anche per immagine, perché credo di poter valutare anche monetariamente una certa immagine che posso dare senza inorgoglirmi chiaramente alla città di Napoli. È un avvenimento importantissimo, mondiale, è un lavoro massacrante, e tenga anche presente, questa è una cosa fondamentale, la cifra che ho chiesto è lorda e dentro devo anche pagare alcuni assistenti miei, quindi non è roba solo quindi, mia. Ma senta, ma questa polemica sul cantautore di sinistra che chiede i soldi, poi questi tempi, no, sa, questo, di questi questa tempi è l'unica polemica ridicola, Il resto va bene, cioè io capisco benissimo il momento difficile dell'Italia, è difficilissimo, è complicato, e quindi bisogna anche andare a venirsi incontro in tutti i modi, lo farò, ma nessuno mi ha obbligato a fare questa, io lo faccio veramente per amore di Napoli, della cultura in generale, e la prova ne sia, glielo ho detto, che rinuncio quasi 2 anni di lavoro per fare questo lavoro, ma non posso rinunciare a 2 anni di lavoro senza avere quello che avrei, almeno parte di quello che avrei in quei 2 anni certo, di lavoro. Senta, secondo il Corriere della Sera proprio questa prima dichiarazione che lei ribadisce, lo faccio per amore, insomma, di fronte a questa richiesta poi dice stona un pochettino, insomma. No, secondo me no, perché se non lo facessi per amore, prima di tutto non lo farei, è la cosa più essenziale. Se lo facessi per amore, non mi metterei in questa situazione. Cioè, guardi, la chiarezza, la frase più chiara da dire è questa. In 2 anni, se io lavorassi come normalmente lavoro, guadagnerei il doppio di quello che guadagni, soprattutto ora, in questo periodo. Guadagnerei il doppio di quello che guadagnerei lavorando per il Forum delle Culture. Senta, ma c'è è un atto che sembra ridicolo dirlo, ma non è generoso, certamente, ma è un atto in perdita. Un atto buono. Senta, ma c'è la possibilità che lei possa rinunciare se non vi trovate d'accordo? Sì, c'è. C'è la possibilità, però siccome è un atto d'amore questo, io lavorerei lo stesso per Napoli, anche con un altro ruolo, anche a lato, anche soltanto come collaboratore, anche solo a lasciare il nome, non è importante che... Però se mi vogliono presidente, se vogliono che io abbia tutte le grane, i problemi, i pensieri, i pasticci a cui non sono abituato, se desiderano che io voglia dare un'immagine alla città di Napoli, se pensano e sperano che questo sia pubblicità per il mondo, per l'Italia soprattutto, che dia una garanzia, direi anche di qualità, voglio in certo senso di onestà e di chiarezza, perché sarò chiaro quando mi daranno una cifra, la dirò a tutti e la farò vedere. E soprattutto di uno che non si nasconde, dice le cose. Tutto questo ha un prezzo. Se vogliono questo, io devo avere anche un adeguato compenso. Senta, io nel ringraziarla e salutarla, il bastardo che sta sempre al sole, lei un giorno dirà mai a chi si riferiva quando ha fatto quel vero. No. Ma perché? No, questo aumenta il mistero, una generazione. Una generazione completa. Non era una persona ben precisa. No, non era una persona ben precisa. E comunque se c'era non c'è. se c'era non c'è. Ho come una mezza idea. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Grazie. Staremo a vedere. Roberto Vecchioni è stato con noi, insomma, a spiegarci questa vicenda, queste polemiche sul compenso come presidente del Forum delle Culture a Napoli. Vedremo se si formalizzerà poi questo incarico. Intanto ci fermiamo alla pubblicità del meteo e poi parliamo di l'ennesima tragedia, alluvioni, colpa dell'uomo. Si sentono sempre le stesse frasi. Il ministro dell'ambiente, dopo l'ultima tragedia a Messina in provincia, ha detto bisogna anche fare una nuova legge urbanistica, soprattutto bisogna pensare anche di spostare le popolazioni che vivono nelle zone a rischio, una tesi molto molto controversa. Alle 8:37 minuti, allora, il ministro all'ambiente Clini ha detto bisogna sgomberare le aree a rischio idrogeologico, quelle come in provincia di Messina dove c'è stata l'ennesima tragedia, 3 morti a Saponara in provincia di Messina, di cui saluto il sindaco di Saponara, Nicola Venuto. Sindaco, buongiorno. buongiorno a voi. Voglio salutare anche il senatore Franco Orsi del Popolo della Libertà e sindaco di Albisola, un'altra zona, non proprio lì, ma insomma la Liguria colpita duramente di recente. Senatore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Saluto anche Giorgio Zampetti, che è uno geologo ed è il coordinatore dell'ufficio scientifico di Lega Ambiente. Zampetti, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Io partirei da Saponara, dove ovviamente c'è ancora... Si respira insomma la tragedia per le tre vittime, dove però ci sono anche l'inevitabile rabbia, anche però le polemiche. Sindaco Venuto, le chiedo questo: intanto, che ne pensa di questa idea del ministro Clini a dire se è costruito troppo, se è cementificato troppo, forse bisognerebbe togliere le popolazioni da dove c'è il rischio di crolli? Concettualmente dico esatto, poi non è un concetto che si può generalizzare così. Nel nostro caso si tratta di un nucleo storico che esiste lì da oltre 200 anni, non era una zona censita ad alto rischio idrogeologico, ma perché proprio non aveva nessuna e non ha nessuna di quelle caratteristiche. Ovviamente dico per le zone in cui persiste un alto livello di pericolosità è corretto, però questo non è nel nostro caso. Non è nel vostro caso, però l'idea è praticabile secondo lei da sindaco e da primo cittadino? Perché come si fa? Certo, vorrebbe dire, ci vorrebbe dall'inizio non costruire, non cementificare laddove ci sono i rischi. Sicuramente con la ragione della mente sarebbe corretto, con quella del cuore un po' meno. La gente è fortemente legata al proprio territorio, si può rischiare di salvare la vita da un lato, però poi far morire l'anima e il cuore dall'altro, quindi però bisogna stare molto attenti. Capisce sindaco che forse è meglio preservare la vita, cioè uno ha le radici, al cuore, agli affetti, a tutto questo può anche rinunciare, ma non può rinunciare alla vita se poi succedono queste cose. Beh, è chiaro, però bisogna sempre contestualizzare le discussioni. Qui, ripeto, nel nostro caso non è una zona ad alto rischio idrogeologico. Dico, ci sono state, ho visto i dati pluviometrici, c'è stata veramente una grande mole d'acqua e questa collinetta, dico, una piccola parte non ha tenuto. Poi non so se avete visto le immagini. Sì. In realtà, dico, lo smottamento è stato minimo, c'è stata una apertura, credo che non superi i 6-7 metri. La cosa invece pericolosa, che poi di fatto ha provocato le vittime, è che è partita da una certa altezza, credo intorno a 60 metri, quindi poi per inerzia ha preso questa massa a una grande velocità, buttando giù le pareti di questa casa. Quindi lei comunque dice non è una zona a rischio idrogeologico. Io vorrei chiedere a Zampetti, Giorgio Zampetti, geologo, come detto coordinatore dell'ufficio scientifico di Lega Ambiente, gli ambientalisti e Lega Ambiente da sempre in prima linea a chiedere e applaudire a questa iniziativa ora concretizzata dal ministro Clini, ma non è davvero una cosa impensabile? Cioè, cosa vorrebbe dire spostare popolazioni? Beh, sicuramente, diceva bene anche il sindaco prima, l'intervento è un intervento insomma auspicabile, sicuramente molto risolutivo, però è chiaro che va contestualizzato. Oggi purtroppo in Italia, diciamo, dopo tanti anni di urbanizzazione diffusa, spesso anche priva delle regole più elementari, si è costruito molto. Noi facciamo un'indagine ogni anno, ad esempio l'indagine che abbiamo fatto sulla Liguria ci dice che dell'85% dei comuni ci sono edificazioni nelle aree a rischio, dei comuni classificati a elevato rischio idrogeologico, per cui è sicuramente un fenomeno molto diffuso e rimuovere le abitazioni da quelle zone è l'intervento più risolutivo che si può fare, perché è chiaro che non devo più proteggere, non devo più creare interventi di messa in sicurezza, ma rimuovo il bene o le persone che sono esposte a pericolo. È chiaro però che poi esiste in area di rischio anche tantissimi centri storici o interi centri abitati, per cui sicuramente è un intervento che dobbiamo iniziare ad attuare. Oggi soltanto il 5% delle amministrazioni, secondo le nostre indagini, fa questo tipo di intervento, però è chiaro che bisogna puntare innanzitutto dove ci sono quelle case isolate, dove ci sono impianti industriali, dove ci sono dei palazzi, come per esempio nel caso di Genova sono viste delle immagini in cui sono delle edificazioni che sono palesemente in contrasto con la dinamica del territorio. Quelle però sono un'eredità, però lei dice se si vuole delocalizzare una struttura risolve in maniera più definitiva della messa in sicurezza, che magari è un qualcosa di più complicato, soprattutto nelle zone. Guardi, molto brevemente, perché poi è un concetto un po' complesso, però diciamo il rischio è dato dalla combinazione di due fattori. Uno è la pericolosità, ovvero la probabilità che in una zona si verifichi un'alluvione o una frana, e il secondo fattore è il danno che questa alluvione o frana possa causare. Per cui più aumentano i beni esposti al rischio e più aumentano più aumenta il rischio, il livello di rischio. Se io rimuovo totalmente la possibilità di questa frana alluvione di creare danni, il rischio arriva a livello zero. Per cui se un fiume sonda in una zona in cui non c'è nulla, chiaramente quella zona non è una zona a rischio idrogeologico. Questo insomma per spiegare il dicevo prima appunto che è un intervento che può essere risolutivo. Senta, guardi Zampetti, so che il senatore Orsi è uno che con gli ambientalisti non è mai tenero, ho visto una sua dichiarazione ieri sul Corriere della Sera, no? Lei ce l'ha, cioè a dire sì, poi gli ambientalisti dicono così, poi appena bisogna andare a costruire un qualcosa subito si oppongono come forma mentis, no? Senatore Orsi, cosa non ci vede? Cosa ci vede di male nell'idea di... Io condivido totalmente quello che ha detto il dottor Zampetti, cioè il problema è complesso e di fronte alla complessità del problema noi dobbiamo avere due punti fermi. Il primo, che non esiste il rischio zero e che quindi bisogna considerare di più l'applicazione dei piani di protezione civile, che sono le azioni che vanno fatte quando c'è un rischio dichiarato dalla protezione civile. I casi, per esempio liguri, almeno uno dei due casi liguri dove l'area del Fereggiano Bisagno è qualificata come rischio ad esondazione trentennale, quindi sì, con una probabilità molto elevata, che si dovrebbe da fare almeno 30 anni con tutti gli strumenti conoscitivi, deve avere un piano di protezione civile che quando viene dichiarato l'allerta si fanno delle cose per impedire che la gente stia nei luoghi dove l'esondazione è probabile. Quindi evacuazioni, però l'idea di, diciamo, uso questa parola, deportarli prima, questo no. No, aspetti, questa è una prima questione, cioè dobbiamo entrare nella logica che l'esondazione dei fiumi, anche aggravata dai problemi legati ai mutamenti climatici, è come molte delle tragedie naturali un fenomeno che ha una sua naturalità e che quindi non esiste il rischio zero. Capita. Questa è la prima questione. A questo c'è legato il fatto che l'uomo ha fatto molto per aggravare il rischio e che quindi è possibile mitigare questo rischio o rimediare dei danni fatti dal passato. Poi potremmo interrogarci su quando è il passato, perché è vero che ancora oggi in alcune aree del paese si fanno degli interventi sconsiderati, è anche vero che molto del rischio che dobbiamo gestire deriva da un'edificazione che ha centinaia di anni. Ma poi agli ambientalisti che critica fa in tutto questo? Io ma non agli ambientalisti, io a questo sistema faccio la critica che è possibile immaginare che questi interventi che producono delle varianti al piano regolatore abbiano almeno le procedure delle opere del G8 o dei campionati di calcio. Infatti il ministro ha detto che ci vuole una legge urbanistica diversa. Cioè, il problema è, per andare poi nella complessità, che un intero quartiere di 60.000 abitanti, come può essere quello del centro di Genova, o comunque pezzi di cittadine con centinaia di persone, ha come soluzione la costruzione di alloggi in aree non insediate. E lei dice se ci vuole per una variante 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 10 mesi. Ma non è soltanto problema della variante, è che fortunatamente in un pezzo importante d'Italia, perché poi le cose vanno anche valutate regione per regione, esistono norme che limitano fortemente la possibilità di utilizzare aree libere per nuovi insediamenti urbanistici, e questo è un problema. Certo, infatti il ministro Clini ha detto ci vuole una nuova legge urbanistica, senza quella allora qui così si può capire l'idea dello svuotamento, comunque di non far abitare nelle zone a rischio. Se però per costruire poi un palazzo da un'altra parte ci vogliono anni per tutte le autorizzazioni, allora non ha senso svuotare da una parte se poi non si può costruire da un'altra. Allora, ci ha chiamato l'800240024 Giuseppe da Salerno. Buongiorno Giuseppe. Salve, buongiorno. Dica. Allora, io mi occupo, sono architetto, mi occupo di piani di protezione civile di cui si è parlato poco fa, e volevo dire questo: va benissimo rifare le leggi, chiaramente, perché, come diceva prima il sindaco, la sua zona ad esempio non era stata studiata adeguatamente, eventualmente bisognava forse fare. Dice, non era a rischio idrogeologico, non è una zona ad alto rischio idrogeologico. Perfetto, quindi va benissimo studiare ancora, rifare le zone a rischio, così come diceva il ministro. Però volevo dire questo: già dal 98, quindi i fatti di Sarno, con l'elaborazione dei piani stralcio delle autorità di bacino in tutta Italia, sono state individuate le zone a rischio, e per le zone a rischio più elevato, cioè quelle indicate con R3 e R4, rischio elevato e molto elevato, era previsto obbligatoriamente un piano di emergenza. Oggi questo non c'è. Ci fosse stato questo dappertutto, almeno non c'è dappertutto, ci fosse stato questo, già basterebbe per salvare delle vite umane. Il piano di emergenza. Grazie Giuseppe. Senta, sindaco Venuto, per esempio un ascoltatore ci scrive: la collina, quella parte che è franata, è una collina naturale o era terra di riporto? Una collina naturale, c'erano olivi centenari. Una collina naturale. Cioè, questa cosa, cioè, voglio dire, nessuno si può rimproverare nulla di quella tragica fatalità che, come ci dice il senatore, può succedere. Cioè, dobbiamo fare i conti che purtroppo a volte le esondazioni, gli smottamenti, le frane devono succedere e possono succedere. Sì, sì. Ovviamente dico è triste perché stiamo piangendo 3 morti, però proprio lì è stato uno di quei casi che si definiscono bombe d'acqua. Senta sindaco, però avrà letto i giornali oggi, per esempio a Barcellona Pozzo di Gotto, quindi insomma vicino, una pala ogni 10 volontari, oppure dopo la tragedia di Giampilieri di qualche anno fa, ricordiamo lì ci furono 37 morti, oggi scrive il Corriere, sono arrivati 400.000 euro di pochi finanziamenti, tra questi sono andati anche come consulenze a un diplomato in pianoforte al conservatorio, che magari su questo tema non è proprio la persona più ferrata. Ecco, lei da amministratore pubblico, voglio dire, c'è davvero, si può dire, se noi facciamo tutto, mettiamo in campo tutte le ipotesi per arginare questi rischi, oppure c'è, no, mi ha capito anche un po' di lassismo su questo tema? Sì, non vorrei sembrare controcorrente, però dico, porto l'esperienza della mia comunità e del mio paese. Noi alle 18.45 abbiamo lanciato una richiesta d'aiuto alla prefettura e alle 22.40 già mi sono trovato l'esercito nel paese. Già a mezzanotte c'erano 100 uomini dell'esercito con carabinieri, vigili del fuoco, guardia forestale, volontari. Ho visto sinceramente una forte presenza delle istituzioni. Ovviamente dico, nelle prime ore c'è stata proprio una piccola difficoltà nella cognizione dei danni, ma dovuta a quelle che sono, a quelle che erano realmente le condizioni meteorologiche ancora, perché poi continuava a piovere. Però già alle 6 del mattino eravamo riusciti a creare una pista per andare nell'ultima frazione nostra, che era San Pietro, quindi già dopo 4 ore non c'era più nessuna frazione isolata e di fatto è stata un'ottima risposta. Quindi queste vittime che la vostra comunità sta piangendo, sono vittime di che cosa? Lei definirebbe non colpa dell'uomo, ma vittime della fatalità? Sì, proprio in questo caso sì, sono state proprio delle vittime della fatalità, sfortunate. Zampetti, le chiedo questo, Orsi dice va bene, siamo pronti ad accettare queste proposte, però vogliamo fare una legge urbanistica che permetta, se si vuole delocalizzare le persone o evacuarle o svuotare le zone a rischio, poi non è che le associazioni ambientaliste si mettono di traverso appena si vuole costruire qualcosa da qualche altra parte? Ma su questo diciamo che, appunto, come dicevo prima, bisogna fare delle distinzioni. Noi oggi il problema che abbiamo oggi sul nostro territorio è che spesso le leggi urbanistiche, i regolamenti, i vincoli che erano vigenti non sono stati rispettati. Chiaramente adesso vado a concentrarmi su quelle situazioni più critiche. Per cui dove c'era una zona, per esempio, perimetrata ad elevato rischio idrogeologico, quindi le cosiddette zone a rischio R4, lì si è costruito. Insomma, noi abbiamo fatto vedere la zona di Aulla in cui il rischio era una zona classificata a rischio R4 e in quella zona ci sono delle edificazioni, per cui su questo vorrei che non passasse il messaggio che è colpa della mancanza di leggi o regolamenti il fatto che si è costruito così tanto in zona a rischio. È vero poi che la delocalizzazione, soprattutto di una situazione così, in cui si è costruito così tanto, comporta degli interventi molto ingenti, per cui anche trovare delle aree che non sono a rischio dove si possono delocalizzare le strutture e soprattutto quindi capire anche in base ai regolamenti vigenti come questa cosa si può fare nella maniera più efficace. Però su questo io direi che basterebbe intanto partire anche dai regolamenti che ci sono e dai vincoli che ci sono per riuscire a capire come gestire meglio il territorio. Questo... Io ritorno a quello che dicevo anche prima, nel senso non penserei subito alla delocalizzazione dell'intera città di Genova piuttosto che alla delocalizzazione di tutti i centri storici che abbiamo. Noi abbiamo veramente tantissime situazioni di palazzi che sono costruiti, singoli palazzi costruiti su un corso d'acqua. Abbiamo una situazione di impianti industriali, raffinerie, distillerie e quant'altro in zona a rischio. Il deposito nucleare delle scorie di Saluggia è costruita su una Cioè lei dice non pensiamo subito a dire spostiamo una città che è un qualcosa di incomprensibile, ma magari iniziamo dalle piccole cose. Io qui mi devo fermare, però devo ringraziare tutti, dal sindaco di Saponara in provincia di Messina Nicola Venuto, al senatore Franco Orsi del Popolo della Libertà, sindaco anche di Albisola insieme in provincia di Savona, e Giorgio Zampetti di Lega Ambiente. Allora, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni in redazione, il nostro Peter Bescapè, l'alpino in regia, pronto alle sue peregrinazioni montane, ovviamente, per il weekend. Che dire, ci fermiamo, noi ci ritroviamo lunedì mattina. Andate sulla nostra pagina Facebook, 24 Mattino. Ci trovate così, a lunedì mattina.